10 Va ora in onda, mi sta stretto lo stivale, programma di intrattenimento satirico e a suo modo divertente, di Cremona Strazzullo, dirige il maestro Corrado Parisi. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, 20:10, mi sta stretto lo stivale, Riccardo Cremona. E Alessio Strazzullo ancora più emozionato rispetto al prayer dell'altra volta, questa è la prima puntata, Riccardo, la prima puntata. Sì, infatti smetteremo di dire boiate a destra a manca e incominceremo con le domande e fatti di attualità, Alessio. Un attimo solo, questi fatti di attualità a quanto pare non sono molto molto molto seri, però... Sono sempre boiate, però di attualità, c'è boiate, boiate di un certo livello in ogni caso. Boiate attuali, diciamo così, finiamo da lì, cominciamo subito, come stai, come è passata la settimana? Tutto bene, il tempo sembra essersi calmato, non fa più tanto Parliamo freddo. Del tempo, Alessio. Non ci sono più le mezze stagioni, sono... No, siamo una radio... Siamo una vecchia, radio normale. Se dici così. No, siamo una radio normale, non siamo una radio che prova a fare qualcosa di diverso, quindi se avete voglia di ascoltare qualcosa di diverso non ci ascoltate, ascoltate noi, anzi, non ci ascoltate. Ok, andiamo avanti, va bene, cominciamo subito con una notizia che mi... saltata all'occhio e mi preme informarvi assolutamente. Ti preme. Mi preme sempre, lo sai benissimo in questi casi. Beh, la notizia si intitola Donna risparmiatrice, Alessio. È importante risparmiare, molto importante. Non fino a questo punto, lasciami andare al punto. Allora, di questi tempi soprattutto. Adesso sì, tanto di cappello, risparmiare mi raccomando. Però stiamo parlando del 1907. Ah, l'altro ieri praticamente. Giusto pochi giorni fa, Giusto pochi giorni fa. Stiamo parlando di l'agenzia di Bolzaneto della Banca Popolare di San Pier d'Arena. Dov'è Bolzaneto? Non ho più pallida idea, credo da qualche parte su al nord, facciamo, non mi interessa. Facciamo una ricerca perché siamo persone multimediali, una radio multimedialissima. Vabbè, tu intanto fai la ricerca e io continuo a leggere. Siamo nel 1907, una certa signorina nel fiorfiore dell'età del 1907 che mostrava la caviglia, quindi era, diciamo così, una poco di buono. Ida Giovanna Mantelli si reca con le sue belle 100 lire. Mantelli? Mantelli. Non Mantellini, perché devi sapere che c'è la moglie di un nostro collaboratore. Sì. Che possiamo fare nome e cognome? Posso fare il nome? Ma certo. Alessandro Germanò. Alessandro Germanò e Annalisa Mantellini sono praticamente ormai sposati. Però se tu mi dici che è Mantelli e non Mantellini, non è c'è... stato, diciamo così, un intervento quasi inutile. Ah, però okay, se vogliamo farlo va bene. Continuiamo, dicevo che la signorina, nel fiorfiore dell'età, si reca all'agenzia di Bolzaneto con le sue 100 lire. 100 lire, stiamo parlando di una somma abbastanza importante, non pochi spicci, diciamo così, soldi veri. Si reca lì e li mette sul libretto di risparmio da brava risparmiatrice. Magari voleva fare qualcosa, li mette lì. Allora passano, dico, ben 102 anni. 102 anni è un'infinità. Non muoiono due cariatidi, diciamo così, e... diciamo muore prima Ida Giovanna Mantellini, poi sua pronipote che si chiama Umiltà Morazzini. Ma poi erano fissati, a parte il fatto che Umiltà secondo me non è un nome che si può dare proprio, pure secondo in me. Generale nella vita. A parte questo, d'accordo, erano fissati con i doppi nomi. Vabbè, che vogliamo fare? Cioè, tu hai un doppio nome? Sì. Qual è il tuo doppio nome? Mi vergogno un po' a dirlo. No, a meno che non sia Mercedes. No. Il mio... Qual è il tuo secondo nome? Riccardo Maria Leopoldo. No, Riccardo Maria, no. Abbiamo molti amici, lo sai che si chiamano Riccardo Maria, Giovanni Maria. Abbiamo un po' di, non sì, po' vabbè, di persone però, differenti. A me con la virgola, quindi diciamo che sono due nomi così a cazzo. Sempre Maria e... Vabbè, ma volevo rispettare, sai, il nonno, lo zio, quindi... Comunque, sono cose mi è arrivata la... Dov'è Bolzaneto? Bolzaneto è Borzaneo o Bosaneo, lingua ligure, un quartiere genovese della Val Polcevera, ex area industriale, ora contornata da piccole industrie ed imprese innovative. Un posto di merda. Vabbè, parliamo di Liguria, comunque. Scusate la parolaccia, io non sono una persona che dice molte parolacce, però insomma... C'è un Bolzaneto anche in Brasile, tra l'altro vedo che c'è un Bolzaneto alla collina di Brasile, c'è un Bolzaneto anche in Brasile. Sì, pare di sì, ma questo non credo sia il vero Brasile. Comunque andiamo avanti con la notizia. Andiamo avanti con la notizia. Allora, stavo dicendo Barcellona in Sicilia, non è che stiamo dicendo che dopo Ida Giovanna Mantelli, la risparmiatrice, sì, la pronipote Umiltà Morazzini, sì, si dimentica della presenza di questo libretto, muore anche lei. Tra l'altro entrambe le signore sono arrivate all'età di 102, quindi si comportavano bene. Allora, cosa mangiavano queste signore per arrivare a 102? niente, soprattutto credo... cosa non mangiava. Bravissimo. Comunque parliamo di demenza senile cavalcante, sicuramente. Da a quell'età, 102 anni, non è che... Niente, Umiltà Morazzini lascia ai due figli, Aldo e Maria Grazia, l'eredità. Ora Aldo e Maria Grazia, mentre fanno le belle pulizie di Natale, scovano una vecchia cassa. Aldo e Maria Grazia non hanno due nomi, un nome solo. Forse Morazzini? Oh, no, dico come no, Aldo e Maria Grazia, sono Aldo due persone diverse. E comunque, mentre scavano fra i fatti di casa loro, trovano un vecchio libretto intitolato, sì, un vecchio libretto, Banca Popolare di San Pier d'Arena. No! Loro, morti dalla curiosità, aprono e leggono, wow, la nonna, la bisnonna ci ha lasciato 100 lire in eredità. No! E fanno, Aldo, e tu dimmi grazie. Dimmi grazie. Sai che possiamo fare? Andiamo alla Banca d'Italia, così, dall'altro che non c'entra nulla, perché la Banca San Pier d'Arena ormai è solo libro storico, diciamo così, andiamo e chiediamogli il corrispettivo. Ma... Dimmi. No, dico, secondo te sono andati lì per chiedere qualcosa di più? Aspettavano che la cifra fosse salita oppure? Loro si sono fatti su bei calcoli, perché altrimenti mica andavano per 100 lire. Grazie, per questo. I calcoli, interessi. Strano. Anche perché io leggo qua che l'interesse a quell'epoca era del 3,5 netto, cosa che noi oggi ci potremmo pure scordare. Scusate. Allora, io non ne capisco niente, proprio l'economia, queste cose non sono. Se tu mi dici che è tanto. Certo, poi dopo adesso... in ogni caso chiederemo a chi. Al nostro economista. Al nostro economista, chiediamo a lui, vediamo che cosa ne pensa. Comunque, stavo dicendo, vanno lì e chiedono la bellezza di 500.000 euro. Sì, vabbè, ma così è facile. No, richiedimelo, però. Scusa, quanti soldi? Quanti soldi sono? 500.000 euro. Io ti ripeto che così è facile, però non è che... Un'immensità. Non è che puoi andare lì dopo quanti anni sono? 100, oggi siamo nel 2010. 2010, sì, 1907, 103 anni. No, non è che puoi andare in un posto dove hai messo magari 100 lire e tornartene con 500. Cioè, stanno fuori di testa, secondo me dovrebbero mettersi le pile in saccoccia e andarsene. Non è concepibile. Anche perché io ho fatto una ricerca, la Banca Popolare d'Italia, il suo capitale ammonta a 156.000 euro, quindi sti soldi, non capisco dove vanno a pescarli, cioè andiamo a rubare i poveretti. Vabbè, i poveretti poi mi sembra eccessivo, però... Diciamo che secondo me hanno ciurlato un po' il manico. Tra l'altro il 1907, stiamo parlando di un'antichità. Adesso mi potresti dire di che anno stiamo parlando? Parliamo veramente di un anno importantissimo e lontani, così lontano nel tempo. Riportiamo qualche notizia. Nel 1907 nasce praticamente l'autocromia dei fratelli Lumière, il primo processo fotografico a colori commerciali. Cioè, vi rendete conto? Poi, altre notizie importanti: in Ungheria viene pubblicato I ragazzi della via Pal. Cioè, la stiamo storia, parlando di, la storia. Di storia. Permettimi di dire un fatto importantissimo: nel 1907 a San Pietroburgo viene firmato l'accordo anglo-russo che porterà la triplice intesa. No. Cioè, libri di storia. Io l'ho studiato all'elementare. La triplice lasciami intesa. Dire che il 17 ottobre nasce l'Atalanta, che ieri abbiamo mazzoleato abbastanza. Quindi siamo anche contenti, è la verità. Forza Napoli sempre e comunque. Molto bene, molto bene. Io grazie, Forza Napoli. Che gol ha fatto Varela? Mamma mia, un gol. Mamma mia, io ho le mutande cartonate. Eccolo qua, il solito volgare. Voglio dire due cose. Nel 1907 nascono due personaggi importantissimi. Uno è un mito, colui che ha creato la rozzisità, però diciamo rozzo ma bello. La rozzosità. Sì, la rozzosità, scusami. John Wayne. John Wayne. 1907 nasce John Wayne. Cosa ne pensi di John Wayne? Non pensa uomo, di John Wayne. Un bravo uomo, insomma. Un bravo uomo, Alessio lo conosceva di persona. Un bravo pistolero. Alessio, John Wayne, oltre a essere il pistolero che hai visto in televisione, sarà anche stato un uomo normale. Sicuramente non andava a ammazzare persone in giro come facevano i film. Io non penso che una persona come John Wayne scende e va a fare la spesa, secondo me. Oh, sono d'accordo che non c'è. Caccia una pistola e dice: datemi tutto, sono John Wayne. Subito, talmente subito. Nel personaggio che. No. Ok. Cioè, sei John Wayne, non è che sei. E nasce anche la donna con le sopracciglia più grandi del mondo. No, leggo. Ah, questa è carina. Nasce la pittrice messicana Frida Kahlo. Ah, la donna col pizzetto fa le sopracciglia. Alziamo le mani su Frida Kahlo perché. Sì, chi la vuole toccare? Brutta ma brava. Brutta quanto brava, direi. Un po' come la politica. Sì, lì, infatti, ho ripreso una notizia. Come si chiama lei? Non me lo ricordo. Lei secondo te è più intelligente o più brava o più. Non mi pongo il problema. Sicuramente è molto brutta. Poi non so se anche. Leggo qui che nasce James Brown nel 1907, che però non è il cantante ovviamente, ma è un calciatore scozzese. Dopo avremo un collegamento con la Scozia, una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli. Ora, tornando ai alla pochi notizia. Capelli che ti rimangono ormai. Io sono pieno di capelli. Lo so, era così per farti immaginare. Va bene, andiamo avanti. Io, riguardo alla notizia, ho bisogno di parlare metaforicamente coi due eredi. Sì. Smettetela. Per cortesia, smettetela. Siete ridicoli. Cioè, non potete sperare che vostra. Cioè, la vostra pro nonna ha messo 100 lire perché magari voleva vedere quelle famigerate Americhe, diciamo così, voleva andare a vedere un bel film al cinema, qualcosa del genere. Stiamo parlando che quando... A colori, tra l'altro, perché colori, quell'anno era appena uscita. Appena nato a colori. Vediamo, perché quando tipo l'anno in cui se mostravi la caviglia era una poco di buono, lei 100 lire forse per la dote l'avrà conservata, per queste spese che si facevano a quel periodo. Voi venite dove ben 103 anni e volete i soldi? Cioè, andate... Un momento. Andate a ciurlare il manico. Andate, qua c'è la gente che non trova lavoro. Voi andate in una banca a chiedere 500.000 euro. C'è gente che suda 500 euro al mese. Voi perché fate le pulizie natalizie e trovate un libretto di vostra nonna, volete 500.000 euro. Ma poi il problema vero è, non le andate a chiedere alle banche, quelli stanno più rovinati di noi. Siamo rovinati. Andatele a chiedere, che ne so, a... No. Andate a chiedere a loro. Comunque non andate a chiedere questi soldi per 100 lire che vostra nonna. Un appello, diciamo, come si chiamano? Aldo, Alberta. Scusami, Aldo e Maria Grazia. Aldo e Maria Grazia. Siete già stati fortunati a non avere un secondo nome, probabilmente, visto che nella vostra famiglia una schiera di secondi nomi. Poteva chiamarsi Umiltà, ricordiamo. Tornate a casa con il vostro lavoro normale, la vostra famiglia normale, insomma. E basta, smettete. Però vi vogliamo bene, ci avete regalato un gran bel momento. Gran bel coraggio, io direi. Complimenti per il coraggio e per la faccia da culo, giusto? Si dice così? La faccia di bronzo, direi. Faccia di bronzo. Un po' più, faccia, no? Di bronzo di culo. Sei sempre il solito. Va bene, andiamo avanti. Anzi, vorrei innanzitutto salutare il nostro regista. Come non salutare? Bisogna, non l'abbiamo salutato. Ci siamo dimenticati. Un errore, perché è stato mandato l'avviso in filo diffusione all'inizio. Dirige il maestro Riccardo Parisi e quindi... Vabbè, comunque Corrado, andiamo avanti. Parisi. Lasciami salutare Corrado Parisi. Ciao Corrado, come stai? Non vi sento! Voi lo sapete, il nostro DJ è pieno di paure, ansie, un uomo distrutto. Sta in cura. E questo è il problema. Ci sono persone come lui che soffrono nel mondo e questi due vanno a chiedere 500.000 euro. Lasciami dire che 500.000 euro non serviranno per risolvere quel problema di Corrado Parisi. Eppure c'è ragione. Lasciamolo dire. Andiamo avanti, buttiamo la notizia e va via così la notizia. E passiamo a un'altra notizia molto di più attualità. Allora, tu sai il programma, il reality show più famoso in assoluto, il patrino del reality show, qual è? Il Grande Fratello. Bravissimo, il Grande Fratello. Ottima risposta, ti vedo preparatissimo sul Grande Fratello. No, ma che cosa stai per dire sul Grande Fratello? Allora, voi conoscete il Grande voglio Fratello? Voglio saperlo. Lasciami dire. Allora, il Grande Fratello è un programma che io naturalmente non guardo, perché mi sembra non guardo i reality show. Una cosa che guardo il Grande Fratello è il programma della Jalappas. Non so se l'hai mai visto, che prende in giro il Grande Fratello. Questa è una scusa. Tutti dicono guardo la Jalappas e poi sanno vita, morte e miracoli tutti quei cretini che stanno là dentro. Alessio, quindi... mi stai stressando l'anima. Se io dico che non guardo il Grande Fratello è la pura e semplice verità. Io invece ho guardato la prima edizione, non mi sembrava male, pensavo fosse... Questa è una cosa che fa figo dire ho guardato la prima serie, perché in verità era una bella idea, perché diciamo, sa che così, cosa può succedere là dentro. Fai proprio l'intellettuale, ma falsissimo, perché la prima serie è stata una di quelle baggianate in assoluto. Però c'era Pietro Taricone, ha pure trombato, l'unico, il primo a trombare in diretta televisiva, è storia. 1900, quando è stato? 2000, se non sbaglio, è entrata nella storia Pietro Taricone, perché ha trombato davanti a tipo mezza età, tra l'altro con una che parlava così. Non so se ve la ricordate. Sì, infatti, mi sembra che era una bagnina genovese. No, peggio, un po' più su. E comunque parlava come Hubert. Sì, parlava come un uomo. Lui l'ha scelta, gli sarà piaciuto così il carattere. Era di Bergamo. Il nostro DJ era di Bergamo, dice, può essere Bergamo de Hola o de Hota? De Hola. Andiamo avanti, comunque io guardo soltanto il programma della Jalappas. Ma dite, Grande Fratello, che tu sai. Bene, uno dei momenti clou di questo programma sono... mettono in onda i provini di quelli che vogliono essere i concorrenti. E vedi della gente senza proprio anima, gente di dubbio gusto, senza senso del pudore, delle persone inconcepibili che ho paura di poter incontrare in mezzo alla strada. Penso siano innocui. No, l'ignoranza non è mai innocua, fidati. Ah, scatta l'applauso assolutamente, perché insomma. No, non è mai ignota, perché se ti metti con un cretino ti batterà per sempre. Comunque andiamo avanti, io ho bisogno adesso di fare la guida per i futuri concorrenti del Grande Fratello. Questa è una buona idea. Grazie DJ. Naturalmente riconoscete questa bellissima serie. Però manca la Marcuzzi che ci dice buonasera. Grande puntata, piena di roba, di cose. Insomma, così. Sì, senza gonna. Dato che dalla prima puntata la gonna sale sempre di più. Secondo me all'ultima sarà nuda come mamma. Sono scelte di comunicatori. Ah, io sono d'accordo, perché io soffrisco benissimo di questo. Non guardo il Grande Fratello, ma guardo Alessia Marcuzzi. Ok. Molto bella comunque. Sì. Anche una sua età comunque, mi sembra sia arrivata a Ianta. La notizia, la notizia. La notizia, andiamo avanti. Allora, giovani propinante, tu vuoi diventare un futuro concorrente al Grande Fratello? Sì! Grazie Alessio, ascoltami. Una delle domande più ricorrenti, dopo quasi nessuno sa rispondere, è: che cos'è il tallone d'Achille? Qual è il suo tallone d'Achille? La gente ha avuto il coraggio di rispondere nei modi più assurdi e impensabili. Adesso potresti dirmi che cos'è il tallone d'Achille con precisione, per piacere? Allora, il tallone con tallone d'Achille si intende indicare il punto debole nascosto di una persona, di una macchina o di un sistema. La dicitura deriva dal mito greco secondo cui l'eroe Achille sarebbe stato immerso, bambino, dalla madre Teti nelle acque del fiume Stige. Per immergere Achille, la madre dovette tenerlo per il tallone, che rimase così l'unica parte vulnerabile. Secondo la versione del mito riportata dall'Eneide di Virgilio, durante la guerra di Troia, Paride, venuto a conoscenza del punto debole dell'eroe, lo uccise colpendolo al tallone con una freccia, però pure lui. Dai. Ah, che dai. Culo. Paride, che culo, Paride. Altrimenti Achille dai. Te lo faceva così. Siamo in radio, non si vedono le mani, ma immaginate. Quindi, cari provinanti, quando vi chiederanno qual è il tallone d'Achille, non vi fate uscire il sangue dalle orecchie. Rispondete con semplicità, il vostro punto debole. Che cosa, che ne so, inventatevelo. Magari dite una bugia, sennò per tutta la trasmissione poi se entrate vi rompono le scatole con... Dite una cazzata, tanto quelli che ne sanno, inventatevi un punto debole qualunque. Tanto la cosa più grave che ti possono dire la partecipante del Grande Fratello qual è? Qual tu è? Non sei vero. Tu non sei vero. Sei solo qua davanti alle telecamere. Sei. E ci credi, si chiama reality show, sono davanti alle telecamere, lo so. E vabbè, comunque... Io mi preme chiedere una cosa al nostro DJ. Regista, qual è il tuo tallone d'Achille? Buonasera! Una risposta universale, una panacea. Ti dico la verità, lo sospettavo che così. Non lo so, un sentore. Eppure bisognerà fare qualcosa per quest'uomo. Alessio, qual è il tuo tallone d'Achille? Ma certamente non lo direi qui, davanti a tutte queste persone che ci seguono. Sono una persona da sé. No, mi ritengo una persona abbastanza sicura di sé, abbastanza tranquilla, forse un po' saccente, va. Io direi un po' prolissa, tra l'altro. Il tuo, voglio sapere il tuo tallone d'Achille. Ma non lo so. Il mio è il sinistro. Allora il mio è il destro, chiudiamo qua. Così. Questa era proprio pessima, diciamo. Questa era proprio ridicola. Però storia vera. True story. Passiamo avanti, adesso hai qualche notizia da dirmi? Ma io vorrei farti qualche domanda. Ah. Perché l'altra volta ti sei dimostrato così tanto impopolare parlando male di Facebook. Questa non è preparata. Sto per infatti... fare delle domande a Riccardo Cremona che lo metteranno abbastanza in imbarazzo. Leggo che non è in scaletta, quindi non mi trovi è in proprio scaletta. Così. Riccardo Cremona la volta scorsa ha detto: io odio Facebook. Facebook penso sia un potentissimo mezzo, però noi italiani lo utilizziamo male, perché di qua, perché di là, le solite storie, insomma. Invece noi adesso ci colleghiamo sul nostro bel Facebook, andiamo a vedere il profilo di Riccardo Cremona, che io ho attentamente spulciato in questi giorni. Lasciami dire che sei un infame. Riccardo Cremona, oltre ad una serie di status ridicoli, come per esempio... non mi sono mai piaciute le befane. Vabbè, ma è l'unico modo che utilizzo. Hanno buttato lo stampino, Riccardo. Hanno buttato lo stampino. E ci sono un sacco di commenti che evitiamo qui di leggere. Vabbè. In ogni caso, tu hai sulla colonna di sinistra. Sì. Quelle, come si chiamano? Quelle applicazioni che ti dicono chi cosa sei stato nella sì, storia. I test. Dove allora, vai a arrivare? Il primo è: quale genere di grande avvocato sei? E ci sta, su di giurisprudenza, quindi è normale. Taormina, avvocato penalista, una buona risposta. Quale cavaliere dello zodiaco sei? Vabbè, e ci tutti sta. L'hanno fatto. E tutti. Ci sta, perché sei un ragazzo. Adesso stai rischiando che io vada a spulciare nel tuo di profilo Facebook. E io dubito che sia poi, meglio del mio. Quale personaggio di romanzo criminale sei? E ci sta che sei il freddo. Ma ricca, da una persona che odia Facebook, che baciatore sei? No, dai, che baciatore sei? Baciatore perfetto, e c'è quell'immagine terribile di Spider-Man e Mary Jane che si incrociano le lingue, lui a testa sotto, allora. Lei normale, lui che si arrampica sulle pareti, cioè... è una cosa indegna. Allora, lascia che io ti minacci, perché ti sto minacciando in questo momento. Lascia nella che prossima minacci. Puntata andrei io a vedere. Io spuccerò il tuo io bellissimo. Io stasera vado, tolgo Keppinuz 6, tolgo Charlie Brown, queste cose qua. Perché tu secondo me hai fatto dei test peggiori dei miei, ne sono quasi sicuro. No, comunque sono test normalissimi. Quale baciatore sei? L'ho fatto così per hobby, per sfizio. Sì, per hobby. Almeno per io non taggo follow a destra manca, è il motivo per cui ho detto che qui odo Facebook. Va, mi diverto a scrivere i miei stati personali. Te ne sei uscito. Sempre parlando di Facebook. Dimmi. Sempre parlando di Facebook. Ancora sempre il tiro mancino. No, niente tiro mancino. La prossima volta aspetto il tuo. Parliamo di una notizia che ho letto appunto su Facebook. Sai, questi gruppi. Ah, prima di tutto volevo sapere che cosa ne pensi del gruppo fondato pochi giorni fa di anziani che commentano i lavori in corso. Beh, gli anziani commentano i lavori in corso, secondo me un gruppo esistente, l'hanno creato davvero. L'avrei creato io, peccato che non ci ho pensato, perché secondo me gli anziani che commentano sono uno dell'immagine più bella, sono gli eroi dei nostri giorni. È l'Italia. Io mi ricordo che a Napoli c'era uno che guardava la metropolitana così avanti e indietro. A un certo punto è andato. Sapete che a Napoli dura un sacco di tempo i lavori. Anche 10 anni. Anche 10 anni, 15 anni. Cioè, le tecnologie avanzano e noi stiamo ancora facendo a metropolitana. Invece di creare punti in cui questi anziani possono ritrovarsi, noi facciamo per 10 anni lavori in corso, vanno là, si riuniscono tutti quanti, parlano. Anche perché il giovedì fanno una parte di una scopa, una cosa. Bravissimo. No? Con le mani dietro la schiena, così. Io ho visto scena vera, true story. Lui stava così, con le mani dietro la schiena, guardava. A un certo punto si parla col capo massa e fa: capo, ma sta metropolitana a state facendo o a state cercando? Dico solo questo. Non c'è male, non dico c'è solo male. Questo. Non comunque, io apprezzo male. Perché il mondo è felice grazie a questi vecchietti. Che altrimenti, dove li metteremo? Cioè, dove li metti, vecchi? Vabbè, non andiamo avanti. Poi, magari chiediamo sempre ad Ascanio, che ha sempre queste idee geniali. Sai un'altra immagine bellissima dei vecchi che mi piacciono tantissimo? Qual è? Quelli che vanno dal fruttivendolo, non comprano niente, si prendono un mandarino e lo mangiano per strada. È quella, però. Quello è un po' come Starbucks. Però quelli in Italia mangio cioè, un noi paghiamo i mandarini strada. Il vecchietto viene convinto che la sua faccia rugosa sia salvi tutto, prende il mandarino e se lo mangia per strada. Vorrei sapere la tua opinione su un evento che si svolgerà sabato 16 gennaio a Piazza del Plebiscito dalle 16.30 alle 19.30, cioè coccole gratis. Tu vai a Piazza del Plebiscito, trovi gente con questi cartelli e vai lì e ti abbraccio. Tra l'altro persone. Leggo free hugs, sì. Che diciamo che la traduzione è sbagliata, perché hugs è abbraccio, quindi sì, è abbraccio gratis. Se dopo abbiamo qui una persona che parla molto bene inglese. Vabbè, però guarda, ti do la conferma, è così. Quindi io dovrei, mentre cammino per Piazza del Biscito tra le 16.30 e 19.30, qualcuno potrebbe abbracciarmi così a sorpresa. La risposta è sti cazzi, però qualcuno però, potrebbe abbracciarmi. Io non queste tra cose. Tra l'altro possiamo fare qualche commento sulle persone che parteciperanno. Secondo me conviene vedere le persone un pochettino più sistemate, scegliersela. Bravo. Andare là e dire: voglio abbracciare te, t'ho trovato su Facebook, mo mi devi abbracciare, cioè. Tipo abbracci per tutti, ma non proprio tutti. Alcuni sono più tutti di altri. Esatto, abbracci per alcuni. Va bene, io non penso ci andrò, tu? No, guarda, non sono un amante degli abbracci a caso. Magari Corrado Parisi ci andrà, chiediamo a lui. Corrado, ci andrai tu per abbracci così, gente sconosciuta? Non mi vedo saltare! Ok, è là. Suppongo che ci andrà. È una risposta giusta. No, comunque abbracci da sconosciuti non sono mai stati il mio pane quotidiano, diciamo molto la verità. Molto bene, molto poi, bene. Poi se qualcuna bella, una donna benente vuole abbracciarmi, stiamo parlando di un'altra cosa. Un'altra cosa. Poi volevo parlarti di un'altra notizia che ho letto in questi giorni. Tu conosci Darwin Awards? Dimmi, Riccardo Cremona, dimmi. Tu conosci Darwin Awards? Ma ne ho sentito parlare, ho visto un film, però devo dire la verità, non mi ha entusiasmato. Allora, neanche a me, comunque. Per chi non sapesse, Darwin Awards era un problema di sceneggiatura, era un problema di... Tu continui di a drama, fare, non continui di... a fare l'intellettuale. La sceneggiatura non funziona. La sceneggiatura non funziona. Continui. Gli attori non sono. Allora, per chi non lo sapesse, il premio Darwin Awards è dedicato alle persone meno volute, che castrandosi e/o eliminandosi fanno un favore al mondo. Vabbè, è fascista questo. No, perché contribuisca all'evoluzione della specie. No, è fascista, è nazista. Tra l'altro, benché molti dei vincitori di Darwin vengano premiati postumi, la morte non è necessaria, poiché i vincitori devono solo rimuovere se stessi dal pool genetico, quindi anche nel caso che si rendono incapaci di procreare. A te questa cosa piace? Tantissimo. No. No, è tantissimo perché premia... Sembra un po'... Razzista? Un po' tutto, un po' nazista, un po' fascista, un po' antisemita, un po'... No, secondo me invece eliminare gli stupidi è una delle cose che dovremmo fare, perché gli stupidi sono pericolosi, l'abbiamo detto pure prima, sono pericolosi. So, a me fanno molto più paura gli intelligenti, ta-ta-ta, senti qua che... Smettila, che, falla finita. Gli intelligenti, guarda che... molti dicono, guarda che però Hitler era una persona colta, era una persona intelligente. Colta. Sì. Dici. Questa è una cosa triviale proprio. Era per te, guarda. Te le chiami, però, te le chiami. Ci sta. Secondo me però te le chiami. Ci sta. Secondo però me ci sta, ci può stare. Allora, lasciami spiegare perché i cretini fanno bene ad andarsene via da questo mondo. Ti faccio un esempio, una notizia, certo, del Darwin Awards del 2008. Grazie DJ per la base, perfetta. Allora, stiamo parlando della Tennessee State University. Sì. Una coppia di giovani molto ubriachi. Sì, un attimo solo, qui abbiamo una persona che in studio che ha vissuto in America. Dov'è il Tennessee? Nel centro, ci indica dico nel centro. Con queste manine piccole piccole, con questa voi non potete vederla, però minuscola. È stata timida timida. Il centro. Centro. Quindi nel centro dell'America abbiamo la Tennessee State University. E comunque una coppia di giovani. No, facciamola dire ad una persona che parla inglese. Scusami, vieni qua, vieni qua subito. Vieni qua subito, dici. Lei, come lei si chiama Anna? Anna Bazzicalupo. Anna Bazzicalupo. Applausi per Anna. Anna, mi devi leggere questo in inglese. Tennessee State University. Mamma mia, mamma quanto mia. Mi senti ignorante. Mamma mia. Scusa, ripeti un'altra volta perché è bellissimo. Tennessee State University. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Quanto sono belle le lingue quando sono le sanno le persone. Quando sono esatte. Esatte. Quando sono esatte. Io mi sento un ignorante, non ripeterò il nome dell'università. Ma io questo. Ho avuto paura di dire free hugs, quindi penso un pochettino. Figurati. Comunque, stiamo parlando di una coppia di giovani. Sì. O due lui. Sì, due lui. Sì, sì, cioè. No, non coppia vabbè, biblica. Ma non c'è niente amici. Di male in ogni caso. No. Sei pure omofobico. No. Perché razzista, nazista. Dai. Mi hai preso in fallo. Okay. No, comunque parliamo di una coppia non biblica, una coppia di amici. Molto ubriachi, perché l'unica spiegazione è questo. Anche se secondo me l'alcol non arriva a tale livello di idiozia. Molti ubriachi decidono di scalare. Oh, scalchiamo una bella barriera di filo spinato. Una volta un mio amico conoscente. Il nostro caro Paolo Petrella, che ha inventato la sigla, la bellissima sigla di Radio 2010, ha scavalcato lo stadio, la ringhiera dello ma stadio. Ma lo stadio ci sta, è una cosa popolare. Sì, ma di notte però. Anche quando lo fare, stadio scusa. Era chiuso, si è steso sul prato e wow, si è divertito. Volevo farlo un po' pure così. Io sta cosa, ma magari ci possiamo organizzare, sì. Sai. Free scavalcation. Esatto. Ci sto. Ma siamo, ci siamo sto. Vecchi per adesso, magari ci fanno male tu le sei gambe. Vecchio, sono giovane. A me l'hanno detto per tutta la compleanno. Vita questa storia. Che sei vecchio, sì. Pensaci un po', guarda. Ti vedrò tipo domani vicino a dei cantieri a chiedere. Così con le mani dietro la schiena a fare. Bravissimo. Scusi, ma sta metropolitana era Pimmo, no? È bravissimo, okay. Bravissimo. Comunque il genio decide di scavalcare una barriera di filo spinato che in tutto il mondo vuol dire non scavalcare. No, ovviamente. Tra l'altro la barriera separava la cittadina dalla una sottostazione elettrica. Mamma mia, che cosa hanno combinato? Uno dei due confratelli, perché faceva parte di una confraternita, sai, quelle confraternite americane. Ah, Y. Decide di salire. Decidono di salire. Si dice che nomi grechi, alfa, beta. Ah, non erano Y. No. No. Quelle sono i punti cardinali. Ah, ok. Comunque, diciamo che decide di salire su un trasformatore. Già un'idea eccezionale. Saliamo su un trasformatore. Chi non l'ha mai detto? Voleva cavalcare la bomba. Come bravissimo. Saliamo stare là sopra e sentire questa potenza infinita. Ehi Johnny, saliamo sul trasformatore. Così ci divertiamo, va. E poi, non contento, decide di pisciarci sopra. Ma è un cretino. Quindi come se... Ma è un trasformatore elettrico. Non ci puoi versare sopra neanche una bottiglina d'acqua. Ma che cosa dico? Ma neanche un bicchiere d'acqua. Ma non ci puoi sputare neanche sopra. Bravissimo. È un trasformatore elettrico. Infatti la conseguenza è stata un'elettrolocuzione via grazie. Genitale. Mamma mia, che dolore. Che dolore. Una scarica di più di 2000 volte l'ha beccato lì. Diciamo che dolore lì. Nel che produttivo. Dolore. Io che mi lamento delle pallonate quando gioco a pallone. Ma sai penso la cosa più che... bella qual è stata? Non qual era... Ho... Il motivo per cui il quale lui doveva pisciare sul trasformatore. Il divertimento. No, ancora peggio. Una scommessa. No. Vuoi vedere che lo faccio? Vuoi vedere che faccio la pipì sopra il trasformatore più grande della nazione? E già sarebbe veramente una cosa terribile. No, il motivo per cui lui doveva pisciare il trasformatore. Una donna. No, fammi dire. Era colpire un nido di vespe sul trasformatore. Cioè lì non so, cioè c'è da ridere qua. Quello vuole pisciare su un nido di vespe, che già non è una pessima idea, perché se escono le vespe incazzate nere e tu stai là colpendolo che di fuori, stai lì che ti stai friggendo, cioè, amico, arrivano tre vespe addosso. Secondo me le vespe erano l'ultimo dei problemi. Una vabbè, volta che pisci su un trasformatore stai morendo penso che. Cioè ti capito quello. Ah, salgo su un trasformatore. Sì, yeah. Ah, sai che faccio? Adesso piscio su un nido di vespe. Yeah. Ed è morto così via genitale. Però però devo ammettere che non c'è male. Non io c'è dico male, grazie a quest'uomo che si è eliminato dalla faccia della terra. Condoglianze alla famiglia, questo tuo massimo rispetto. Ci dispiace perché comunque sempre di ragazzi si tratta. Sì, però vostro figlio, però, un minimo. Però, un dai, minimo. Dai. Nel centro degli USA, dai, un minimo. Occhio, dai, fatelo bere di meno. Ma sì, ma insegnategli perché... che la corrente a contatto con l'acqua crea dei seri problemi. Okay. Altrimenti poteva morire tipo tra un anno. Insomma, questo moriva mentre si asciugava col phon sotto la doccia. Sì, magari sì. Sotto magari la doccia, sì. Mamma, il phon, boom, 3:20 è morto pure là. Chiaro. Andiamo avanti adesso, tu allora, dimmi qualcosa. Questa è una notizia un po' vecchia. Tra l'altro, devi aiutarmi perché io questo titolo ci provo ogni volta quando abbiamo preparato la puntata, ma non riesco a dirlo. Vabbè. Parliamo di Adriano Celentano. La notizia. Mitico. È rock. Abbastanza. È rock. Abbastanza. Tu sei rock? Non è molto. Sono, penso di essere alle volte rock, alle volte. Sei vecchio pure in questo. Sono un balzer, ma. No. Una balera. Sì. Bene. La notizia è un po' vecchiotta. Dicevamo, la leggo dal notiziario da cui l'ho presa. Adriano Celentano forse non la saprà mai, ma in questi giorni uno dei più famosi blog del pianeta sembra essere improvvisamente venuto a conoscenza della sua musica. Autore di questa riscoperta è il fenomenale Boing Boing, che è un importantissimo blog di attualità americano. Lo conosco. L'autore non è vero, tu non segui blog. Lo conosco, sì, Boing vabbè. Boing. L'autore del post è Cory Doctorow. Lo stavo per dire. A questo punto ce lo facciamo dire dalla nostra amica americana. Anna, vieni qui subito. Per favore, ci potresti leggere il nome? Lei è veramente per metà americana. Corrado, scusami, abbassa un attimo la voce. Leggici il nome di questo blogger. Cory Doctorow. Oh yeah. Altro che Mike buongiorno, questo è il vero inglese. Ma di che cosa parliamo? Probabilmente non è inglese, tra l'altro sarà Cory Doctorow. Vabbè, star della blogosfera mondiale, tra le icone di quel movimento digitale che spinge a liberalizzare il copyright. Sì. Il geniale americano ha analizzato ironicamente i modi in cui le persone di lingua non inglese interpretano il suono dell'idioma anglosassone, yeah, pur senza conoscerla. In questa sua ricerca ha portato alla luce un filmato emblematico di uno sconosciuto italiano che ha scritto una canzone in finto inglese negli anni 70. Il mitico il Adriano. Il compositore è proprio lui, è Adriano Celentano, la cui canzone viene presa a riferimento come ottimo esempio di come cantare in inglese senza conoscerlo. In pratica, loro dicono: ascoltate questo pezzo e capite all'estero come ascoltano la nostra lingua. Cioè, una cosa incredibile. Immagina che un giorno qualcuno si mette a creare una canzone, crea una canzone la cui lingua sembra italiano e non è italiano. Quasi tutti i giorni. Cioè, se scrivi italiano e non sembra italiano. Questo è vero. Però comunque stiamo parlando praticamente di il motivo per cui Adriano Celentano è diventato famoso riguardo a questa canzone che adesso leggo. E scusate gli errori, tutti quanti la conoscete sicuramente. Proviamoci. Leggiamo qua: Prison Calling Nancy Nanciuso. Ma l'hai detto anche con la metrica giusta. Ma secondo me la sai, ascoltiamola un attimo. Ascoltiamo giusto così, attimo, ascoltiamo almeno l'inizio. DJ, per cortesia, un attimo. Così ci rendiamo per conto. Per renderci conto quale canzone stiamo parlando. Prison Calling Nancy Nanciuso. You're the cold maze, è bellissimo. Non dicono niente, right, ragazzi. Tra l'altro nel video c'è anche una Raffaella Carrà alle prime armi. E che donna Raffaella. Nel 1907 Raffaella Carrà aveva circa 52 anni. Nel 1907 era una bella donna. Ascoltiamo. Ricordiamo che non sta dicendo nulla. Nulla che abbia un senso. Però il ritmo è bellissimo. No, ma stiamo parlando di Adriano Celentano. Un genio. Tra l'altro sul blog metteremo il video, perché vi assicuro il video fa capire esattamente quanto la televisione italiana sia diventata una schifezza. Questo lo sappiamo. Cioè, ne parlavamo l'altro giorno proprio, stavamo preparando la puntata e stavamo guardando il video. Cioè, era qualcosa di eccezionale. Donne vestite, italiano. Donne vestite che ballavano davvero, soprattutto. C'era la danza, donne vestite, italiano corretto. Un inglese di merda, però diciamo che l'inglese non era massimo. Un italiano perfetto. Italiano perfetto. Tutto bello, molto bello. Ora, molto quindi, bene, molto il motivo bene per cui è diventato famoso è che, praticamente, come noi ascoltavamo Adriano Celentano, Loro spiegano che in questo modo noi ascoltiamo le canzoni adesso, perché io dubito, e qua ne sono quasi convinto, che tutti noi riusciamo a capire bene quello che dico la canzone. Soprattutto mo va di molto R&B, pop. Credo, io un po' l'inglese lo conosco, penso tranne sia quasi la nostra amica Anna, ma credo che Anna non ascolti praticamente niente di pop, R&B, penso che... No, vabbè, però Anna è mezza americana. Ci fa segno di no. Sempre fuori. Con queste manine piccoline. Ha cacciato un ditino fuori piccolino e ha fatto no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Giustamente lei è... giustamente lei è diciamo un po' così. Poi dopo parleremo con lei, perché lei è qui. Lei vive in Scozia adesso, quindi ci facciamo raccontare un poco. In ogni caso, l'altra volta abbiamo mandato un pezzo di Rino Gaetano. Abbiamo ricevuto un sacco di critiche per questo pezzo. Che cattivi, che cattivi. Cioè, ma ho capito che il cielo è sempre più blu e quindi la state ascoltando. Anche fatto con... Tra l'altro è vero, dura 8 minuti. Sì, in effetti, è vero, è un po' troppo. Però la versione di... come si chiama? DJ, come si chiama? Come si chiama? Buonasera! Un grande uomo. La versione di Giusy Ferreri. No, Giusy Ferreri, lasciami dire ha che fatto io il cielo odio. È sempre più blu. La odio. Sembra un cane che la fa uccidere. Fa così e lascia partire. È un'ottima imitazione sia per un cane che di Giusy Ferreri. È perfetto. Io l'ho sentita una volta X Factor che cantava la canzone Remedios di Gabriella Ferreri. Faceva sì. Faceva così. Allalai. E io non capivo che cosa stesse cantando. Io non la sopporto. La ucciderei domani. Come si fanno i cani? Idrofoba. Morta. Per quanto come Barbara D'Urso, Alessia Marcuzzi è una bella donna. No, a me non piace perché gli occhi iniettati di sangue. No, un po', non piace, no? Sembra una strega, nana, è piccola. Poi fa Amore, mio bacio. La capisci? Effettivamente. Non è il caso. E in ogni caso, a voi la canzone non è piaciuta perché l'avete considerata una scelta un po' un cliché. Miscredenti. Era la prima puntata, ragazzi, era un prayer, bisognava andava messa, secondo me andava messa. Anche per augurarci buona fortuna. Abbiamo anche chiesto scusa subito dopo, però andava messa. 8 minuti in effetti sono eccessivi, ci scusiamo. E oggi invece, proprio per rimanere in tema, abbiamo parlato di Adriano Celentano. Oggi ascoltiamo una canzone di Adriano Celentano che si chiama Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ed è un pezzo secondo me straordinario. Ci vediamo tra pochissimo, anzi ci ascoltiamo sentiamo tra pochissimo. Vai. Ah, che bella canzone, Alessio, che bella scelta che hai fatto, complimenti, complimenti. Grazie, grazie, lo so, sono un intenditore. Ma, infatti sì, mi è piaciuta molto. Anche umile, un intenditore umile. Sì, moltissimo, modesto, umile e intenditore, io direi. Comunque, Alessio, la nostra prima notizia parlava di economia e non possiamo... No. Io non voglio più collegamenti con quest'uomo. Io non sono d'accordo. No, non sono d'accordo. È un personaggio abietto, non è una persona civile. Non è ancora detto che lo sia un personaggio abietto, perché fin quando non parlano i tribunali non si può dire niente. Ho capito, ma se lascia il telefono aperto e sento che chiama l'amico Massimo, sento quello che pensa veramente, tutte le cose di cui abbiamo parlato. Dai, lasciamo perdere questa cosa e chiamiamolo, perché domande d'economia non possiamo affidarci a lui, però, economista per eccellenza. Però mi dissocio. Dissociati come vuoi tu, mi raccomando, io lo chiamo invece perché mi è molto simpatico. Chiamiamo come ti pare, Ascanio come ti Mummolo, pare. Chiamiamo Ascanio Mummolo, facciamo il numero, un momento che non me lo ricordo, eccolo qui. Che numero fascista pure lui, mamma. Ma che ne sai, non stai manco leggendo che numero sto facendo. Sto vedendo. Ma falla finita, non vedi niente. Non ci sono neanche più i numeri comunisti di una volta. Ascoltiamo, vediamo se il telefono prende. Chissà che starà facendo. Ah, eccolo, ora risponderà. Risponderà? Ascanio, rispondi. Sempre occupato. Questo. Guarda, se non risponde sono più contento. Ma dai, che risponde solo un uomo molto occupato. Pronto? Ascanio! Ciao Ascanio! Ascanio, Radio 2010! Sentite! Ascanio, che succede? Mi potete chiamare tra due minuti? Sto un attimo in riunione, per piacere! Vabbè! Un attimo solo, attaccate e poi mi richiamate, d'accordo? Va bene Ascanio, scusaci se abbiamo disturbato! Ciao Ascanio! Grazie. Ciao! Ma... Chissà che stava facendo? Ma... Secondo te? Se dice che stai in riunione, magari stai in riunione... Cioè, l'abbiamo acchiappato proprio mentre davamo fastidio. Molto probabile. Ma è saltata la scaletta, dovevamo parlare con lui, mo non so più. Allora, vedi perché mi sta antipatico questa persona? Perché tra l'altro non rispetta neanche gli impegni. Dai, ci richiamerà, ha detto che ci richiama. Eccolo qua, hai visto? Pari del diavolo, spuntano corna, accendini e latte di benzina, sì, come sappiamo. Sì, pure. Vabbè, dai, rispondi, va. Aspetta, no, non ancora, facciamo aspettare. Dai. Pronto? Pronto, buonasera, sono Ascanio. Ma, Ascanio, ma che cos'è questo rumore di sottofondo? Ma quale rumore? Abbiamo sentito un rumore. Allora, è lo scarico di un gabinetto. Chiaro, quale riunione c'era? Senta, io non ho chiamato e non voglio, cioè non ho chiamato qui per essere offeso. No, non stiamo offendendo, però lei ci ha detto riunione. Stavo in riunione, punto. Lasciamola così. Vabbè, lasciamola così. Io non è che vengo, chiamo e chiedo i cazzi suoi. Che sta facendo, che non sta facendo. Le parole, abbassiamo Ascanio, i toni. Le parole. I fatti suoi, parliamo così, va bene. I fatti nostri. Stavo in riunione, lasciamola vaga. Va bene, stavo in riunione, non molto occupata, tutti quanti lo sanno. Ascanio, lei penso... Anche prima ero occupata. Ascanio, io so che lei avrà sentito la notizia di prima della donna risparmiatrice. L'ha ascoltata? Sì e no. Dai, la donna risparmiatrice. Diciamo sì, che allora, però. Sì o no? Diciamo sì. Arrotondiamo a un sì. Beh, cosa ne pensi di questa donna che risparmia 100 lire e ora valgono 500.000 euro e gli eredi vogliono questi soldi? Cosa ne pensi? Ma secondo me gli eredi non dovrebbero pretendere questi soldi, perché sennò va a finire che tutti quanti andiamo a fare un deposito dopo 20 anni, ci andiamo, ci troviamo miliardi e poi che succede? La Banca d'Italia va sotto sopra. Mi sembra giusto, un discorso, non è una cosa logica. Un discorso fila tutto, economista sì, puro, sì. Parla di soldi, inerente ai soldi, giusto? Lei come risolverebbe questo problema? Semplicemente io direi che ne so, dopo 10 anni, come vanno in prescrizione, ma ci vuole le pene, vanno in prescrizione anche i soldi. Se tu non ritiri quei soldi entro 40 anni, vaffanculo, le persi. Facciamo 10 o 40. Però ha sempre l'idea geniale. Sì, secondo me sono sempre spunti da cui partire. Forse non colgono benissimo il centro, ma secondo me potrebbero essere utilizzate per poi costruirci delle buone leggi, cose importanti. Perché ci trova pienamente d'accordo. Mi sembra giusto che... Non è giusto, mi dica, cioè, la pensa come me, non è giusto che uno dopo 103 anni voglia dei soldi. Ma 103 anni, poi il cadavere è pure in decomposizione, ma che no, pretendi? Vabbè, questo non c'entra, no? Parliamo di cadaveri, parliamo di soldi. Ma proprio rancido, schifoso. Solo alcune persone che conosco io puzzano così, però... Va bene, allora la ringraziamo per la sua opinione, più che giusta, soprattutto tecnica, mi è piaciuta molto la sua proposta, la prescrizione anche per quanto riguarda i conti bancari, e la salutiamo, va bene così, e arrivederci Ascanio, alla prossima. Ah, basta. Sì, sì, è finita qua, non è che... Cioè, no, la domanda era questa, finisce qui. Una volta tre quarti d'ora adesso. Lei è stato lei sintetico e rapido nella risposta. Poi se. Però se vuole aggiungere qualcosa. Però no, guardi, meno male che ho finito presto la riunione. Se no, però. Ci dispiace averla disturbata in questa fantomatica riunione. Secondo me in quella riunione qualcosa puzzava. C'era un po' di. Diciamo c'erano due o tre teste marce, però le tagliamo. Diciamo che era una riunione di gabinetto, visto che stiamo in quest'ambito. No, perché non stiamo alla Casa Bianca, però. Vabbè, era bianco il contorno, però non era bianco. Sì, sì. Lei sì. Continua, secondo me, sento un rumore di unghie sugli specchi. Non so tu, ma io li sento clamorosamente. Vabbè, non vogliamo. No, io non mi mangio le unghie, non ce le ho. Va bene, non voglio indagare sulla sua vita privata. Appunto per non grattare. Non indaghiamo sulla sua vita privata. Riunione, non riunione. Grazie mille. Arrivederci Ascanio, alla prossima. Grazie a arrivederci, voi. Arrivederci. Prossima. Alessio, hai visto? Abbiamo avuto l'ennesimo colpo di gelo. A me questa volta mi ha. Massimo! No, Riccardo. Ancora. Senti. Di nuovo. No. Ma questo. Ma Ascanio Mumolo non sa come si. Fammi sentire. Ascoltiamo. Quelli della radio, sì, vabbè, ormai sono proprio ridicoli, guarda. Proprio. Cioè, lasciamo stare. Allora, mo te lo dico cosa mi hanno detto. La prima cosa mi hanno disturbato mentre stavo sul cesso. Li ho dovuti richiamare. Ecco, cioè, era un momento importante. Sai quando tu stai in ufficio tutta la giornata e lo vai a cagare, torni a casa, l'unica cosa che vedi è quella porta di quel cesso, dove vorresti che solo tu e il Padre Eterno state là dentro, no? Ora mi arriva questa telefonata. Vabbè, io educatamente li ho richiamati. Io non gli ho detto che era una riunione, però. Vabbè, mica potevo dire sto cagando anche l'anima. Ti sembra giusto? No, non esiste. Poi mi hanno tenuto 10 minuti, cioè tu mi hai disturbato la caccata del secolo per 10 minuti? Dio santo, vabbè, siamo stati. La caccata del secolo. Poi mi hanno chiesto, stavolta cosa gli dico? Mi hanno chiesto un po' col fatto di una signora che lascia, senti, 100 lire, tipo roba con un sacco di tempo a fare, 1900 mi pare, sì. Lasciato 100 lire e i nipoti sono andati in banca a chiedere i miliardi. Stiamo scherzando, 100 lire. Adesso sai che facciamo te? Io ho una idea bellissima. Andiamo in banca, lasciamo 1 milione di euro a testa. Qui sono 2 milioni di euro. Tra 20 anni ce ne andiamo a ritirare. E credimi, ci compriamo l'Italia. No, l'Italia. E sai che facciamo? Costruiamo un enorme mummolo. Vedi? La storia della mia vita, grande quanto tutta l'Italia. Ci un facciamo. Allora sfrattiamo quelli che ci stanno sul cazzo. Partiamo da questo, perché le vendette si devono sempre fare, ricordiamocelo. Che poi buono. sì, lo so, anche la tua maestra elementare, non ti preoccupare, quella gli diamo fuoco. Va bene? È stato. Allora, ascoltami. Postiamo questo mummolo enorme. Immagina che si vede anche dai satelliti. Cioè su Google Earth dovevamo esserci noi. Capito? No, l'Italia, questo mummolo enorme con questa scritta gigantesca, mummolo, gigantesca. E facciamo l'ingresso, lo facciamo a Reggio Calabria, dove si entra da una parte. Ovviamente vari ingressi per chi viene dalle navi, sai, vai. Poi facciamo Venezia, facciamo diventare un porto. Sai, quei porti però dove vanno solo la gente con i soldi. Cioè dove si mettono gli yacht da 500 miliardi di euro l'uno. 500 miliardi di yacht. Allora. Di euro. Poi, allora, Sicilia la leviamo, proprio come, via. Come fai a togliere buco, la Sicilia? Facciamo un buco enorme, con delle scavatrici, la diventa la piscina più grande del mondo. Abbiamo eliminato la e piscina. E poi facciamo piscina. Tante altre cose, tipo strutture balneari, dei scivoli che partono da Treviso e arrivano giù fino a Napoli, tutte queste cose molto interessanti, scivoli più grandi del mondo. Poi... Per quanto riguarda la puzza di quei barboni, ancora non ti preoccupare, che li prendiamo e li buttiamo tutti in Sardegna. In Sardegna? Tanto chi cazzo se li caga lì? No, siamo su un'isola. No, dai. Io sono lì. E non ti preoccupare. Io sono scommotto. Capito? Ora fai una cosa: vai in banca, anzi, no, perché quelli là sono registrati. Vai sotto il mio materasso. Sotto i soldi, sotto il materasso. Sanno i soldi, sanno quei soldi. Un milione di euro. Che nessuno ha visto. No, perché se sei cazzo che la guardia di finanza ci dico che sotto i matrassi tengo 20 miliardi, col cazzo, vale a prendere, 20 miliardi. Allora, prendi un milione di euro e poi vieni da me, poi l'altro te li metti. Io tu, andiamo a un banco, dopo. Fai quello che cazzo ti pare. Adesso vale a prendere, vai. Se c'è mia moglie, buttala l'aria e prendi i soldi. Ok, muoviti, sbriga. Pronto, Ascanio? Ascanio? Ascanio? Noi la sentiamo. Cazzo di telefono, lasciate Ascanio. Brutto. Ascanio. Allora si Pronto. Compri un Nokia brutto, squallido, con un tasto per l'accensione e lo spegnimento, così. No, rosso. Ma non si preoccupi, la prossima volta con l'auricolare. Sti sì, cazzi. Ho capito, Ascanio. Però noi qua abbiamo sentito delle cose allucinanti. Che cos'è questo progetto il dell'Italia? Mumolo. Ma voi siete sicuri che ero io? La voce, diciamo che è riconoscibilissima. Ma poi eravamo al telefono. Vabbè, ma ci possono essere interferenze. Poi a Milano, qua parecchi parlano così. Non è che sono per forza io, eh. Sembra il mummolo, chi vuole costruire un mummolo? Wow, ho tanti fan dei mummoli. Ah, lei dice che... di gente che si è trovata bene i mummoli, me lo vogliono portare via, anzi, io vorrei aprire una... Sento che stiamo sempre in radio. Allora, vorrei aprire una campagna! Da una accusa, per favore, sto parlando, la prego, siamo... la prego per cortesia, io non l'ho offesa in radio, adesso sto facendo... Ma io non la sto offendendo, sto lei è un criminale! Sto facendo un annuncio pubblico, per un cortesia. Un annuncio, senti chi... Sì, perché Vittorio ha annunciato quello che mi ha rubato l'idea. Allora, per cortesia, per cortesia. A me quest'uomo fa schifo. Per cortesia, piace. Non rubate l'idea dei mummoli. Lo sono andato a registrare al catasto. Al catasto? Sì. E non si sa mai, l'ho registrato ovunque, anche alla SEA. Che cazzo se ne fotte? Comunque, l'ho registrato ovunque. Anche se già non voglio fare nomi, ma lo chiamiamo piano R. Questo piano R mi sembra un architetto italiano. Sì, un architetto mi ha rubato l'idea, ha fatto una specie di cosa e si ma chiama. Ma lei sta parlando di Renzo Piano, ma lei non può dire queste cose. L'idea del mummolo era mio, lui ha fatto questa struttura che l'ha spacciata per Vulcano Buono, quando in realtà i progetti sono come quelli del mummolo. Cioè lei sta dando del millantatore a Renzo Piano, uno non degli so architetti chi è, non importanti. So come lo chiamano tra gli amici, ma per me... No, millantatore è un... Sì, vabbè, sono fatti suoi, non lo voglio sapere. Ok, però le dico che mi ha rubato questi progetti, quindi un appello pubblico, non rubate i progetti degli altri, mummolo è unico. Cioè lei adesso dalla nostra accusa, perché abbiamo sentito che lei vuole costruire un mummolo sul territorio italiano. Ma ripeto, è sicuro che ero io. Ma mi sembrava lei, parlava sempre col suo amico di nome Massimo. Io non ho amici che si chiamano Massimo, mi dispiace. È sicuro, anche sicuro. L'altra volta c'era un certo Massimo. No, ma non ero io. Lei cioè, nega. No, io non ne nego, non ho proprio amici che si chiamano Massimo. Ah, quindi nega, scusi. Nega, no. Nega che lei ha amici che si chiamano Massimo. Io non nego che non ho amici. Io nego che ho un amico che si chiama Massimo. Lei non conosce nessun Massimo? No, Massimo no. Paolo, Michele, Vincenzo. Un certo Ciro viene da Napoli. Simpaticissimo, giustamente. Bravo. Come si può chiamare il napoletano? Chiudiamo questa conversazione. Va bene, chiudiamo la conversazione. Allora, io se riesco a fare, diciamo, una cosa seria e parlare con la radio, cioè io a lei non la faccio invitare mai più, perché lei mi fa schifo. Io mi oppongo perché secondo me è un bel personaggio. Un bel personaggio. Posso prego, essere. Prego, dica. Adesso, giusto per dire, forse abbiamo iniziato col piede sbagliato. Però, se lei non mi vuole invitare, non fa niente. Mi dispiace tanto, ma io comunque i soldi continuerò a fare. No, no, non si preoccupi, non è una questione economica. Io vorrò sempre continuare a chiamare, perché lei gli spunti ce l'ha. Tutti quanti abbiamo un lato più ombroso del nostro carattere. Purtroppo noi abbiamo conosciuto... Riccardo, questi se lo sentono chi sta al governo, eh? Questi lo prendono. E non è che fanno una grande opera come il ponte di Messina, questi ci asfaltano l'Italia, capito? Se lo ascoltano e ascoltano... Già che hai detto grande opera come il ponte di Messina... Vabbè, grande opera è come le chiamano loro, eh? Cioè, quello, la Sicilia si sta avvicinando e noi ci costruiamo meglio, un ponte. Meglio, facciamo gli scivoli. Come? No. Scusi, ma cosa intendi? Io è uscita dal cuore, è una persona... No, non ha capito... Sul ponte di Messina dovevo fare i scivoli per gli invalidi, perché se no fai conto che mi si ferma la macchina, non mi posso mica mettere sul trucciolato, no? I scivoli così, un handicapato, poverino. Diversamente abile, tanti diversi, però sì, quello è meno abile degli altri. Sì, no? è un modo per dire handicappato in maniera più educata. Diciamo due ruote. No, come due ruote? Vabbè, lasciamo perdere, ho capito la sua idea, i due ruote così possono andare. Sì, sì. Salutiamola. Grazie comunque. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie, adesso arrivederci. Sto strozzo il cazzo. No! No! No, ancora. Ha chiuso? Non pronto? Pronto? Non ha chiuso. Parole, non ha chiuso. Parole, non ho parole. Ed è una tua idea questa. Vabbè, io voglio chiamarlo. Voglio chiamarlo. Va bene così. Andiamo avanti, dai. E purtroppo, Riccardo, siamo arrivati veramente alla fine. Il nostro tempo è scaduto. Un'ora questa volta, dai. È un po' di più, dai. Abbiamo messo delle notizie. Purtroppo salta il collegamento con la Scozia, no, con la nostra inviata Anna. No. Salta, no. Me, salta. Io, Anna, voglio sentirla. Adesso, prometti. C'è pochissimo tempo. Farò una cosa cortissima. Fidati di me, ma proprio bene, rapida. Va bene, va okay, bene. Ok, siamo in collegamento con Anna dalla Scozia. Sentiamo un po' Anna. Ciao Anna, ci sei? Hello, in Scotland. Anna, fuori dai coglioni, non ci interessa più niente. Vai bene così. Sei stato veramente veloce. Sì, hai visto? Sei stato di parola questa volta. Fidati, io sono un uomo serio, anche perché che cazzo ce ne fotte a noi di cazzi di Anna. Vabbè, cioè, ma io penso che la Scozia sia... Ma che cazzo deve succedere? Ma troppe parolacce. Ma quale parolacce? Questo è un eufemismo. Lascia perdere, in Scozia cosa... Cavolo, deve accadere in Scozia. Ma penso che Anna saprà dirci sicuramente di più nelle prossime puntate. Sì. Faremo dei collegamenti con nostri inviati in tutta Europa che stanno facendo l'Erasmus. Ah, benedetta Europa Unita. Ah, è l'Europa Unita. Purtroppo siamo arrivati veramente alla fine questa volta. Sì. Non mi metterei più il bastone tra le ruote. È arrivato il momento dei saluti. Ah, molto bene. Salutiamo Vincenzo Lamagna che ci dice: io non ho idee, sono un cervello di gallina, quindi non posso migliorare il paese. Ciao Enzo. Poi salutiamo Michele Martone che ci contatta sulla chat di Facebook e ci chiede: ma chi c'è dietro questo contatto? Chi c'è dietro questo contatto che ogni tanto ci contatta? Contatto. E ci siamo noi, Michele. Ti salutiamo. Chi insomma, cazzo se... ci vuoi essere, Michele, se vuoi se vuoi mandarci una mail, così ti salutiamo meglio la prossima. Chi c'è dietro al microfono? Chi c'è dietro al microfono? Poi salutiamo Valentina e Maria che ci scrivono cose interessanti sul programma. Che non abbiamo voglia di leggere, quindi ciao Valentina, ciao Maria. Salutiamo Paolo Petrella che ci contatta durante la registrazione e ci dice: non avete le prove che sono entrato nello stadio, non potete dirlo se no chiamo il mio avvocato. Che peccato, no, guarda, anche perché ci dispiace, perché è una notizia... A me piaceva, sarei venuto con te volentieri. Vieni qua e racconta. Vieni qua, vieni qua Paolo. Ciao Paolo. Ed è arrivato un momento un po' particolare, quello dei compleanni. Ah, abbiamo dei compleanni particolari oggi? Facebook ci segnala che è il compleanno di un caro amico, Carlo Montola, detto Odrag. Ciao Odrag. E tanti auguri di un grandissimo compleanno. Perché si chiama Odrag, tu pensi che sia? E poi abbiamo saputo che è il compleanno di una persona molto speciale, domenica, è il tuo compleanno e quindi Riccardo Cremona. Tanti auguri! No! È la verità. Ti vogliamo tanto bene e vogliamo mandare una canzone bruttissima. Infatti il concesso. Addirittura ad un certo punto si dice: tanti auguri papà. Spero che non sia un... Però le emozioni sono vere. È una minaccia, tanti auguri papà, eh. No, che cazzo tanti dici? Tanti auguri a papà. Meno male che non mi vedono, mani in alto. In ogni caso, su queste note meravigliose, noi vi ricordiamo che potete scriverci a info@radio2010.com. Abbiamo cambiato un po' gli indirizzi. O seguire il nostro sito all'indirizzo www.radio2010.com. Insomma, scriveteci, noi vi salutiamo tantissimo. Niente, chiudiamo con il motto. Certamente. Siate curiosi tutti. Siate curiosi, assolutamente. E mi raccomando, seguite Radio 2010. Cerchiamo mani, ragazzi, cerchiamo mani. Un saluto da Riccardo Cremona. E da Alessio Strazzullo. E anche dal nostro DJ, Corrado. Ciao! Grandissimo. Grandissimo. Arrivederci. Ciao. Dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, dieci, d